tuffo. Chi è? Ciao Mari. Avanti, chi è? Luca. E lui? Vabbè. Ciao Mari, facendo c'è? Facendo sto. Non c'è lo chef, no. Ah, Gio Mario, non c'è lo chef. Cosa? Non c'è lo chef. Ah, deve essere appena a moglie, da sì. Aspetta, vedo un po' se c'è Tore. Tore. Boh, grazie, c'è il volume abbassato. Tore. Gio Mario, dimmi. Sì, per Luca. Sì, sta giocando. Tore. Dormito, Come sta già Graziano? Non risponde. Graziano si è fatto 30 ruretto. Ah, per l'ammuglio, Graziano. No, Gio Maria ha detto che si capita di ammuglio. Siccome si è secuto dentro la vassa, l'ha riempita d'acqua bagnata e ci ha messo un paio di chili di sale. Adesso ci chiede a Mari. Ma chi? E beh, di gonfiva. Ehi! Ogni tanto si vuole bere a muglio, poi lo sali e si indurisce con i piedi. È vero. Che tieno? Chissà cosa conviene, va. Ora ritirando la roba e francendo allora. Secondo me su al computer quando si le donne come piacciono a lui. Chissà con il telefonino, bene dei femmini. Inuti. Allora. Chi si diventa il maniaco? A finisce di me. Vabbè. Da sempre lo fa. Pure lui ci vuole la battizione da un po' fastro. Tore! È uscito! Allora torno, è così. E cosa hai combinato di giù? Niente Giovanni. Sono stato a sistemare un computer poco fa. Mi sono orientato poco fa, là, 10 minuti fa. Sono uscito alle 4 e mezza, circa. Mi sono orientato verso le 7 meno 20. Messo a posto, dai, sì? Sumare giovane. Ma sumare sto. Tore! È uscito! Ma se non canti, Iuia! Ah, poca gana laggio di cantare io! Ma Luca, che stasera non era l'ippodromo! È vero! Piaitu! È bello giù! No, Piaitu! Era l'ippodromo stasera a cantare! E lu! Aspetta per i brutto! Stramenti per i brutto! Oh, cosa vera, lo fera attore. L'altro vicino vera, vero do? Sicuro. Vedo un po' lui, Una contrafigura vera. E tu? Hai tre. Grazie, mandate me. Ma l'ho sentito bello, Senti per tendere la stufa, E allora? Mi sembra che abbia venduto altri quanti. Allora ce ne vuole uno in ogni camera. E li metto tutto abbronzato. No, ma Giovanni, sto papetto non ne prende di più. Attaglia, bubu. Rifala! Buone! E se fa cuscendi lì? E se fa cuscendi, però non entro, ragazzi. Sì, non lo so. Cazzo, però un periodo che sia cosa a noi a chi non fa vedavami. Ah, vai facendo che si è assentato. Cazzo, non si ne può fare nessuno in orario in CBC, cazzo. Aiuto, illumina. Poco da illuminare, va giù. Nasco, io devo andare a prendere la signora adesso. Ci sentiamo dopo, se arrivo presto. D'accordo, solo, dai. Buon proseguo, siamo qua, uno e l'altro. Quando arrivi, abbaia. quando arrivi di mussi, mussi, mussi. E allora? Vero, Gio Mari. Ehi, là. Grazie a voi. Oh, comunque ha fatto un'altra bella giornata oggi. E si conferma, è vero. Mi sono mai fatto una bella massicciata in Ocadareggio. E verrà, ma vi ci giungo, alle giusto e mi sento in alto. C'è la mezzella di chi vi ha c'è sole. Ah, ti bruciavano i soli, Sì, è vero. Oggi è una bella calda la giornata. Anche se c'era quel venticello fresco. Come? Ho detto che c'era anche il venticello fresco. Per esempio, su al monte c'era il sole caldo, però tirava un po' d'aria fresca anche. Noi no, che non finire l'aria, Oggi era veramente bella, l'aria non finire. Ci sono presenti? E mi la giocavano giù molto pure, giù molto. A chi lui sole era troppo gaggio, capito? Quasi 2 ore vira me. Da poi c'è il figlio di Mao, la buona anima, poi c'è la mezza, un cos'è l'altro, e adesso io dire quando mi sono cazzato, si cazzia veramente bene, si stava veramente bene, una bella passeggiata. A chi lo per avvento, a chi se non lo per rimasto, no? Oi! Io non puoi da cazzo di... Io pensavo che eri in bicicletta in Piazza d'Italia. No, saranno, lui. Si dice che... Non ce l'ho più! E ha portato via coso. Tornato. Giuseppe Tornato se l'ha presa. L'ha venduta lui. Ma quella nuova? La bicicletta però. Ma lo scooter no. La bicicletta ho venduto. Ma tu me l'hai trovata un amico di Bombolo. Amico di Bombolo, Giuseppe. Lui se l'ha portata via. No, lo scooter non lo vendono. Oh, avanti, proprio la prima... Zoe, ne ho visto un altro paio. Cazzo, è come il mio, Pompiere, sereno. Se qualcuno vuole entrare, ma non lo sento, guarda un po' tu, Giovanni. Pezza... Pitano, però anche diretti no che mi hanno forse, vai. Quello posso fare, ma non è che mi allontano io, non saranno, cazzo. Sì, no, già i cammini molto cazzo lui che fredda, ma che la vuoi accucciare e raccogliere? C'è qualcuno, forse non esce, Chi vuole entrare? Chi vuole entrare? Bruciati la cacca! Sai, ci piace un sicchirio. Strazzo. Oh, strano che l'ho sentito a Vittorio, Già 3D non intendo. Manco io. Ti te l'hai dissecato, no? Ma rimane sicuro di entrare tutt'altro. Andate a fare la spesa. Già 3D che non intendo. Vabbè. Tu dici che ho impegnato i sassoburi. Tu già... Oh lui, già 7-10 minuti, dai. Sì, fai, fai. Avanti. Don Maria. Vittorio, parla Vittorio. Antonello, ci sei? Antonello, ci sei? No, c'è Giuseppe, no, c'è Antonello. Ciao, Don Maria. Non l'ho sentito per niente, è sempre acceso qua, Antonello non c'è. Dì una cosa, dammi un controllo, come mi stai ricevendo? Va benissimo Giuseppe, va bene. Perché ho cambiato le gommino, ho capito, dunque non ho messo un altro, voglio vedere come stava uscendo. Va bene Giuseppe, va benissimo. Radio 5, buona. Va bene, dai. Grazie, Giovanni. Ok, ciao, Giuseppe, ciao. Ciao.